Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Hello you boy in the corner there. Ehi tu, quello nell'angolo, vuoi diventare un Boy Scout, vero? Sei un ragazzo a posto, si vede dall'apparenza. Penso che sarai un buon capo. E tu, ragazzina, non tu, quella dietro di te, vuoi diventare una guida? Ah, sei già una guida, l'immaginavo. Sarebbe bello che tu andassi ad invitare amici e parenti ad entrare, come te, nel movimento scout. Sono onorato di avervi incontrato. Grazie a tutti e buona fortuna. Spero che ci rivedremo ancora. Grazie. Thank you all. Good luck to you. And I wish we may meet again. Thank you. Abbiamo aperto la trasmissione di oggi con questo saluto di Sir Robert Stevenson Smith Baden-Powell, nonché primo barone Baden-Powell di Gewell, famoso perché nel 1907 dall'Inghilterra ha fondato il movimento mondiale dello scautismo, che in Italia in particolare ben presto è finito nel corso dei decenni sotto l'ala cattolica. Analizzeremo questa organizzazione dei ragazzi, quelli che vediamo ancora oggi per giardini, per strade, con le loro divise e i loro istruttori, perché metteremo in parallelo questa realtà con quella invece dell'organizzazione giovanile dei ragazzi del movimento socialista, non solo col pioniere del dopoguerra, ma anche partendo proprio dalle esperienze dei pionieri inventati sull'onda dell'esperienza del bolscevismo e della rivoluzione russa. Quindi analizzeremo questa realtà anche nel continente austriaco ungarico, per poi venire dunque al suo arrivo in Italia e nello scontro anche con la cultura cattolica. Cominciamo comunque ricostruendo come è nato e come si è insediato lo scautismo in Italia. Una mattina di primavera del 1910 insegnavo all'aria aperta nel bel mezzo di un viale alberato una lezione di ginnastica ai miei alunni, quando un signore dall'aria distinta, che a lungo si era fermato ad osservarmi, si avvicinò e presentandosi mi diede alcuni consigli pratici e mi invitò a casa sua per un colloquio. Emozionato vi andai. Il Vane gentilmente incominciò a parlare del movimento scout sorto in Inghilterra appena 2 anni prima, degli scopi educativi che si proponeva e degli ottimi risultati fino allora raggiunti nella formazione morale, spirituale e fisica dei giovani. Alla fine mi propose di creare gli esploratori a Bagni di Lucca. Il maestro Remo Molinari incontra Sir Francis Vane e così lo scautismo approda in Italia. L'atto ufficiale di fondazione dei ragazzi esploratori viene firmato il 12 luglio 1910 al Love Tennis Club di Bagni di Lucca, davanti ad un pubblico numeroso, con molte autorità, nobili locali, turisti inglesi ed italiani. Francis Vane tiene un discorso in inglese. I ragazzi esploratori effettuano il giuramento scout. Al termine della cerimonia, è il 6 novembre del 1910 quando 30 ragazzi esploratori, guidati da Vane e Molinari, incontrano il sovrano Vittorio Emanuele III nel Parco Reale di San Rossore a Pisa e la nuova associazione riceve dal re l'alto patronato. Da tempo, a Genova, il maestro Mario Mazza lavora per riformare i modelli educativi per la gioventù. E già nel 1904, la prima gioiosa è occasione di incontro e crescita per i giovani. Il 17 novembre 1905 fonda la Juventus Iuvat, organizzazione nazionale per l'educazione. Gruppi di ragazzi si incontrano insieme, seguendo un nuovo progetto educativo per la rinascita civile e morale ed anche economica dell'Italia. Sono le gioiose. Anche il medico James Pensley è a Genova per assistere gli equipaggi delle navi inglesi. Egli è amante dello sport. Da pochi anni ha portato il calcio in Italia, fondando il Genoa. È interessato a creare azioni aggregative per i giovani. Spensley collabora con Niccolò Garaventa, un pioniere per l'educazione dei giovani, e presto si incontra anche con Mario Mazza. Mario Mazza, attraverso le gioiose, cerca di approfondire il metodo educativo fondato sul gioco-lavoro, applicando il concetto del dare fiducia al ragazzo e con la figura del capo come educatore volontario. Indicano come valori l'attività all'aria aperta, l'osservazione della natura e la disponibilità verso gli altri, i piccoli gruppi come luogo privilegiato di educazione. Spensley, nell'estate del 1910, durante un suo rientro in patria, incontra Robert Baden-Powell, che gli fa dono di una copia di Scouting for Boys. L'esperienza del Vane si incontra con quella genovese di Mario Mazza e Spensley, e il 13 novembre 1910 Vane tiene una conferenza sullo scoutismo a Genova, nell'oratorio di San Filippo. Il successo è grande, nuove prospettive per i ragazzi. Si costituisce immediatamente un comitato per fondare una sezione locale dei Rei, formata da Spensley, Mazza e dal colonnello Conte Reghini. Nella sezione Rei confluiscono i ragazzi delle Gioiose. Il 18 e 19 dicembre 1910, a Firenze, durante un convegno delle sezioni Rei, si fonda ufficialmente la struttura operativa dell'Associazione dei Ragazzi Esploratori Italiani. E si nominano i componenti del comitato centrale, con a capo Sir Francis Vane. Si adotta il giglio borbonico della facciata del Love Tennis Club di Bagno di Lucca. Inizia il movimento scout in Italia. Vane aveva conosciuto Baden-Powell nel giugno del 1909, sposandone entusiasticamente il progetto scout e divenendo presto commissario del distretto di Londra della Boy Scout Association, BSA, l'associazione scout fondata da BP due anni prima. BP aveva fiducia in Vane, però egli entrò in contrasto con alcuni dirigenti dell'organizzazione e nel novembre si dimise, accusando i vecchi compagni di dare allo scoutismo un indirizzo militarista. Entrò allora nei British Boy Scout, BBS, un'associazione staccatasi mesi prima in dissenso con BP. Lì Vane ne divenne presidente. L'esperienza genovese da subito ha tratti di originalità. Si sostituisce il giglio borbonico con quello scoperto nella chiesa di Sant'Agostino, nel cui chiostro si riuniscono i ragazzi. Nel 1912, anche in Italia, si evidenziano alcuni contrasti relativi al metodo educativo, che ad alcuni sembrava allontanarsi dai principi dello scoutismo di BP. A Roma, nell'ottobre 1912, Carlo Colombo inizia un reclutamento di giovani e con 25 ragazzi, presso la Società Sportiva Lazio, dà inizio alle attività scoutistiche come Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani, CNJ. A Genova, il colonnello Reghini si trasferisce presso una fondazione laica genovese, il Ricreatorio Descalzi, fondando il RDRE, Ricreatorio Descalzi Ragazzi Esploratori, che confluirà nel CNJ. Ancora a Genova, Spensley rimane a Sant'Agostino con un gruppo di ragazzi e continua le attività come Rei, mantenendo buoni rapporti con Mazza. Sempre a Genova, Mario Mazza abbandona il Rai, intensifica i collegamenti oltre la Manica con gli scout di BP e ristruttura il vecchio statuto della Juventus Juve, arricchendolo di tutti i contenuti dello scoutismo. Si adotta il vecchio simbolo della Juventus Juvat, portando le foglie di rosa a 7, in richiamo alla formazione della squadriglia. Infine, si vara uno statuto con una legge di 14 articoli. Nel 1913, nel chiostro della Chiesa delle Vigne, nasce la seconda Nuova Gioiosa, in sintonia con lo scoutismo di BP. Il campeggio dei Gioiosi, con Mazza, al deserto tra Cogoleto e Varazze, nell'estate del 1914, fu certamente il primo in Italia, con intenti puramente educativi e con l'indirizzo scoutistico. Nel 1915, Spensley, partito per la guerra, muore a Magonza e viene sepolto nel cimitero di Cassare. Il 20 marzo 1915, la Juventus Juvat viene ufficialmente riconosciuta dalla diocesi di Genova e si trasforma in Reci, ragazzi esploratori cattolici italiani, guidati da Mario Mazza, con il canonico Bruzzo e quale presidente l'avvocato Corsanego. Il 28 gennaio 1916 a Roma avviene la fondazione dell'ASCI, Associazione Scoutistica Cattolica Italiana, per opera di uomini di formazione cattolica, tra i quali il romano Conte di Carpegna, primo presidente, e i dirigenti genovesi. Il manuale della Juventus Juvat diviene il manuale ufficiale dell'ASCI e il giglio adottato è quello già in uso alle Gioiose. Il 28 maggio, nel cortile del Palazzo Doria a Genova, alla presenza del Conte Mario di Carpegna e del commissario Mario Mazza, 7 riparti genovesi di scout cattolici, primi in Italia, formulano la loro promessa scout. Sulla strada, larga strada, che ci conta questo nostro vecchio mondo, io ti ascolto, tu mi ascolti, scout d'Europa il cammino con te, come te credi anch'io nel deserto di cammini, quando il cielo spuntava le stelle, ai vivacchi del campo scoprimmo un altro universo in pieno splendore. Sulla strada, larga strada, che circonda questo nostro vecchio mondo, io ti ascolto, tu mi ascolti, scout d'Europa il cammino con te. Non ti chiedo il paese, né chiedo chi sei tu, ma soltanto ti chiamo fratello. L'ideale e la legge che ci hanno uniti qui sono più forti dell'avversità. Sulla strada, la larga strada, che circonda questo nostro vecchio mondo, io ti ascolto, tu mi ascolti, scout d'Europa il cammino con te. L'avvenire può cambiare, ma noi lo cambieremo, la promessa è per tutta la vita. L'avvenire per tanti giorni sarà la fermezza di questo ideale. E questo è un resoconto captato dalla rete sulla vicenda dei Boy Scout in Italia, quelli che un comico americano cinicamente, Jack Benny, definiva gli scout sono dei bambini vestiti da cretini, guidati da cretini, vestiti da bambini. In realtà l'esperienza dell'organizzazione giovanile a contatto anche con la natura, con i giochi, è un'esperienza che nasce prima dello stesso Powell. Nasce in Europa, in un mondo socialista, che cercava appunto di costruire il nuovo mondo a partire anche dall'organizzazione, dalla ricreazione dei ragazzi. Su questo sentiamo l'intervento colto in un convegno a Pesaro di Marco Fincardi, storico dell'Università Ca' Foscari di Venezia, nonché uno dei redattori dell'importante libro Falce e Fumetto, che appunto ci dà questo excursus della vicenda, delle battaglie dell'associazionismo di sinistra dai Falchi Rossi fino poi al Pioniere. Thank you. per capire che senso hanno i giornalini che vengono tentati nel dopoguerra fino all'esordio poi dell'esperienza straordinaria del Pioniere nel 1950, occorre rifarsi a un'esperienza che c'è alle spalle di questi giornalini, che è la nascita di forme associative, proprio di associazioni che ora che esistono dedicate ai bambini. Questo lancio che Vamba fa degli amici del giornalino della domenica, organizza una confederazione giornalinesca che da lui, che è mazziniano ma che si vuole sempre di più al nazionalismo, diventa un'educazione metodica di forme associative patriottiche di gente che poi diventeranno i Lando Ferretti, i Dino Grandi, dei figli di Mussolini, di tutta una gioventù educata che poi dallo squadrismo in poi si manifesta in un certo modo con la cultura che ha preso all'interno di quei circuiti culturali, quindi in modo fascistissimo. Ci sono anche le alternative, perché le forme associative nuove nascono nell'ambito della borghesia all'inizio del Novecento, appunto quello, il circuito lanciato da Vamba è la prima esperienza italiana di questo genere, ma ce ne sono altre che hanno molto più successo all'estero e che diventeranno i grandi modelli, i modelli della cultura tedesca e della cultura britannica, con l'esperienza neoromantica dei Van der Vogel in Germania, nell'area culturale tedesca, quindi nel centro Europa in generale, e lo scautismo di Baden-Powell in ambito anglosassone, che poi sarà molto integrato anche con apporti statunitensi, perché così al militarismo coloniale di Baden-Powell, che non sapeva andare oltre Kipling a mettere dentro suggestioni o a rievocare la cultura cavalleresca di San Giorgio e così dei cavalieri medievali, non, invece gli stimoli veri, grossi, importanti arrivano dagli Stati Uniti, dove lo scautismo attecchisce con la cultura che rievoca invece le tradizioni dei nativi d'America. Andare verso la natura, l'avere tutta una mistica della natura, il trovarsi nei falò notturni a fare i racconti di caccia. Quindi sono tutte le cose più ricche dello scautismo, verranno dagli Stati Uniti, non sono cose introdotte fin dall'inizio da Baden-Powell, sono innesti che Baden-Powell accoglie molto volentieri e che daranno una grossa vitalità prima nell'ambiente anglosassone e poi in tutto il mondo allo scautismo. Il movimento del Van der Vogel invece è un, che significa l'uccello migratore, è un andare verso la natura dei giovani borghesi, aristocratici delle città tedesche, che è un riscoprire, un riscoprire tradizioni antiche, anche un mettersi a ricostruire antichi mulini, antichi castelli, ma che genera una cultura dell'escursionismo che è travolgente. Se voi pensate che quando termina la Repubblica di Weimar con l'andata al potere di Hitler in Germania sono stati costruiti per i giovani 2000 ostelli, quindi che praticamente non ci siano delle vecchie pietre abbandonate che non siano state ricostruite appositamente per essere luoghi di scampagnate, di esplorazioni di città di altre regioni o cose del genere, c'è stato un investimento enorme, un investimento che è stato soprattutto quello delle classi dirigenti e delle classi intermedie verso i propri figli, ma contemporaneamente la classe operaia non sta a guardare. E infatti in Austria nascono già nel 1907. Nel 1907 a promuoverli è inizialmente Adler, uno dei capi della socialdemocrazia tedesca, l'associazione che si chiama Kinderfreund, degli amici dell'infanzia, che promuove quella che è l'associazione dei Falchi Rossi, cioè un'associazione dove appunto si fa escursionismo, si fanno tutte le cose che fanno anche i giovani borghesi, ma dedicate ai figli della classe operaia, che all'occasione collaborano anche con la diffusione del Vorwärts, dell'Avanti, del giornale della socialdemocrazia, che fanno anche attività di teatro, cose del genere, nelle feste operaie, ma appunto che sono un'associazione che vuole essere ricreativa, educativa per i figli della classe operaia. E la cosa ha subito un seguito anche fuori dall'impero austro-ungarico. Tenete presente che anche a Trieste hanno un seguito di massa i falchi rossi, subito, stiamo parlando sempre di città dell'impero austro-ungarico. A Trieste nel 1919 c'è una grossa insurrezione della città perché i carabinieri hanno provato a toccare i falchi rossi che ritornavano da un'escursione. Insorgono tutti i quartieri operai di Trieste, ci sarà una repressione durissima fatta a cannonate, ma il motivo scatenante della rivolta dei quartieri operai di Trieste era stato proprio perché al ritorno di un'escursione i carabinieri che avevano occupato da pochi mesi la città si erano permessi di ostacolare un'escursione dei bambini della classe operaia. Ecco, quindi ci sono, è tutto perché i bambini al ritorno dalla loro escursione avevano lanciato qualche lazzo in rima all'indirizzo dei carabinieri, indicandoli come sbirri. Lo facevano anche con i precedenti sbirri asburgici, ma evidentemente i nuovi occupanti Trieste, i liberatori di Trieste, non erano molto entusiasti di questi apprezzamenti verso gli sbirri che i figli degli operai facevano. Dicevo, dall'Austria si comunica subito all'impero tedesco questa cosa, dove è in particolare Kurt Löwenstein, un ebreo dirigente delle organizzazioni giovanili socialiste tedesche, che organizza e diffonde i falchi rossi, inventando quella che diventerà l'elemento decisivo dell'organizzazione di tutte queste organizzazioni per l'infanzia socialista, cioè la Repubblica dei Ragazzi. Löwenstein inventa questa formula, questo gioco di educazione civica sostanzialmente, dove ai ragazzi si insegna la democrazia come un gioco. Nella Repubblica dei Ragazzi loro devono costruire un campeggio dove tutte le istituzioni, c'è il consiglio comunale, ci sono tutti i momenti di gestione della città, vengono eletti democraticamente, discussi e dove, dove a ciascuno deve essere assegnato un ruolo civile nell'organizzazione del campeggio che è la città ideale, naturalmente rappresentante di quella che dovrebbe essere la società futura dei ragazzi. Ci sono attività molto intense, sono tutte attività che vengono alla fine naturalmente schiacciate poi dopo dal nazismo insorgente. Anche diversi ragazzi militanti in queste esperienze vengono uccisi, gli organizzatori vengono iperperseguitati, non solo Löwenstein, ma già il fatto che Löwenstein fosse ebreo, potete immaginare cosa potesse indicare questo per i nazisti, dire ecco chi ha preteso di educare i figli degli operai tedeschi. C'è un'educazione alternativa che passa attraverso queste associazioni. Pensate che se qualcuno di voi va a rileggersi ad esempio i libri di Wilhelm Reich, il famoso teorico della rivoluzione sessuale, proprio lo stesso libro che si intitola La rivoluzione sessuale, poi L'educazione sessuale dei giovani, che in Italia sarà stato pubblicato da Savelli, parlano diffusamente della sua collaborazione con le istituzioni dei Falchi Rossi e dei Pionieri in Germania, quindi sia con le associazioni giovanili del Partito Comunista sia con quelle del Partito Socialista, dove lui andava a tenere corsi di educazione sessuale. E di risposta, naturalmente, negli ambienti più conservatori c'era un teologo francescano tedesco che scriveva dei libri dove diceva che l'educazione dei Falchi Rossi e dei Pionieri portava direttamente i giovani le cui famiglie iscrivevano a queste associazioni erano votate automaticamente alla sifilide per queste ragioni. Ecco, era il genere di propaganda che poi avrà sempre successo e avrà un particolare seguito poi in Italia, questo nell'Italia del dopoguerra. E dunque, grazie all'escursus di Marco Fincardi, storico, abbiamo capito fino in fondo quanto questa contesa sull'educazione dei ragazzi abbia radici profonde che risalgono proprio all'inizio del Novecento tra un'educazione cattolica ed una socialista. Nella prossima puntata invece analizzeremo meglio cos'era il fenomeno dell'API, i circoli dei pionieri nel nostro paese. Ciao a tutti. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non...